Che fa in quest'ora bella, che suona il suo notturno. Io mi giro attorno a far da sentinella, che non lo so mai, faccio il primo turno. Tu qualunque cosa fai, stai su. Se sei distante e se la voce non arriva è disturbata, cerco di parlare a te in ogni istante, perché per me lo sai sei sempre stata tu l'altro capo di un filo, un unico profilo. Quando guardiamo su, se anche tu vedi la stessa luna, non siamo poi così lontani. Se credi ancora un po' a un giro di fortuna, gioca tutto su domani. Comunque tu starai, stai. Forse, e se tu lo domandi, domani ci troviamo all'incrocio delle tue braccia grandi, per correre a gridarci ti amo. Cosa ci vuoi fare se tutto questo non è ancora un paradiso? Se non c'è abbastanza notte per sognare, e stai cercando pure tu un sorriso, basta entrare in memoria di qualche buona storia e poi cliccarci su. Se anche tu suoni lo stesso accordo, non siamo poi così lontani. Se ti rimetti su l'ultimo, siamo un mondo a parte, siamo parte del mondo, rimasti un po' in disparte, un secolo, un secondo. Non siamo un mondo a parte, siamo parte del mondo, rimasti un po' in disparte, un secolo. Se anche tu senti la stessa ebbrezza, non siamo poi così lontani. Se le no, nessuno ha la certezza, io so nessuno è tu domani. Chiunque tu sarai, chiunque tu sarai, stai su di tu, di tu, di tu, di tu, di tu, di tu, su di tu, di tu, di tu, di tu, di tu, di tu. Su-du-tu-du-du-du-tu-du-du-du. Su-du-tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du